In realtà, forse anche la ragione per cui siete oggi in fondo qui abbastanza pochi è che quando si affrontano temi di questa ampiezza, con domande così, come posso dire, ad ampio, se non amplissimo spettro, è anche giusto che uno, come posso dire, tema o sospetti discussioni un po' teoriche e poco concretamente legati a quelli che sono invece i temi cari, penso anche ad uno studente che si sta formando agli studi storici. In parte il rischio di andare in questa direzione c'è. Io cercherò di evitare il più possibile di caderci facendo solo alcuni richiami a un dibattito storiograficamente molto intenso, anche se forse la storiografia italiana vi partecipa in modo tutto sommato abbastanza marginale, e questo è un peccato. Il dibattito invece intensissimo che è cominciato molto probabilmente, se vogliamo dare un minimo di periodizzazione, a partire dalla seconda guerra mondiale, che quindi ormai è lungo più decenni, un dibattito relativo alla possibilità e alle modalità di affrontare la storia del mondo secondo una prospettiva unitaria. Questo discorso è un discorso che si è reso in qualche modo necessario a partire proprio dal discrimine rappresentato dalla crisi dei due dopoguerra, perché la crisi, la centralità politica dell'Europa, la spartizione del mondo in aree di influenza e in mondi ideologicamente contrapposti, ma anche e soprattutto l'emergere e rendersi sempre più forti di nuove scienze sociali che si sono imposte a fianco e spesso sopravanzando anche in termini di successo accademico ed editoriale la storiografia, tutta una serie di motivazioni in qualche modo ha spinto gli storici a riflettere su cosa voleva dire fare storiografia dopo la grande crisi rappresentata dai due conflitti mondiali e soprattutto se si potesse ancora restare fedeli ad una visione della storia del mondo che ponesse in qualche modo al centro, come chiave di volta interpretativa, non tanto l'Europa come continente, quindi non è un problema geopolitico o di forza politica, ma che ponesse al centro di questa storia mondiale una tradizione di pensiero, una visione del mondo, potremmo forse in alcuni casi spingersi fino alla filosofia della storia, quindi ad una Weltanschauung che facesse della storia del mondo europeo o euro-occidentale in qualche modo la chiave interpretativa capace di ricondurre a unità la storia del genere. Di questa volontà o capacità di fare una storia del mondo in cui ogni aspetto e momento fosse riconducibile ad un disegno comune, un disegno di lungo se non lunghissimo periodo, un disegno scandito da epoche, stati, tappe in qualche modo identificabili. Questa visione quindi di uno sviluppo storico in cui ciascuna realtà e ciascun soggetto potesse trovare un suo ruolo, in qualche misura un suo rango, quindi una sua posizione più o meno privilegiata, quest'idea quindi che ci potesse costruire una grande processualità storica che non lasciasse nessuno fuori e dove ogni entità, ogni popolo, stato, etnia, razze, soggetti potevano essere molteplici, ognuna però giocasse in qualche modo un suo ruolo come in una grande rappresentazione teatrale, in cui ciascuno ha una sua maschera e rappresenta un personaggio. Questa idea che quindi vi fosse la possibilità di tenere insieme la storia universale, identificando tempi, processualità e direzioni di questa storia. Quindi una storia che avesse delle origini, uno svolgimento articolato secondo tempi e modalità specifiche e soprattutto una direzione, e una direzione che questa visione di storia universale identificava nel progresso, poi vedremo questo progresso di che cosa poteva essere riempito quella categoria. L'idea quindi che ci potesse essere una storia del mondo dominata da un senso e da una direzione unitaria è una grande forse utopia, ma è un'utopia che si era fortemente affermata, soprattutto direi a partire, quindi quindi segni di una visione di questo genere li possiamo cogliere già nel XVIII secolo in ambito di pensiero storico e umanistico, e si è affermata con nettamente maggior forza nel XIX secolo e per cominciare a entrare in crisi nei primi decenni del XX, in corrispondenza, questo certamente non è casuale, con l'egemonia europea, cioè in corrispondenza con un momento storico che vede le potenze europee attraverso i loro domini coloniali, attraverso la loro modernizzazione economica, farsi in qualche modo governo del mondo. Era quindi come se due percorsi in qualche modo si svolgessero in parallelo, una storia, che è quella dell'egemonia europea, e una storiografia che guarda il mondo come riconducibile a un percorso unitario in cui l'Europa ha giocato e potrà giocare ancora, sia pure nella sua nuova, veste di Occidente, perché le due cose non sono identiche evidentemente, poteva giocare, continuare a giocare un ruolo propulsivo e in qualche misura di guida, di una sorta di protagonista che in qualche modo guida la danza, che condiziona i ritmi, che dà il là, che propone modelli. Questa teoria stadiale dello sviluppo storico, che ha un'infinità di incarnazioni, io qui sto volutamente stringendo anche perché non voglio ritagliarmi, ha un'infinità di organizzazioni, pensieri, quelle che sottolineano più la dimensione economica, quella più sociale, quella più culturale, non sto evidentemente a fermarmi su questi aspetti, non lo potrei certo fare. Ma la cosa importante è che si affermano quelli che oggi i critici chiamano le grandi metanarrazioni, cioè delle visioni della storia universale in cui un disegno emerge al di sopra della varietà e della complessità dei soggetti storici, un disegno e una direzione che porterebbe gradualmente, e certo anche attraverso conflitti dilaceranti, non è un percorso senza ostacoli, non è un percorso senza cadute, non è un percorso senza vittime, ma questo percorso in qualche modo attraverso difficoltà e tempi vari o differenti, verso dove si indirizzerebbe? Ma sostanzialmente verso la affermazione nel mondo di un modello di società che, volendo anche qui semplificare in modo assolutamente inappropriato ma inevitabile, un modello di società che è quello liberale di un capitalismo avanzato che quindi collega la modernizzazione economica alla democrazia politica. Sono assolutamente radicale nel taglio. Quindi, che cosa avverrebbe? Avverrebbe che la storia del mondo viene ricostruita come una storia che va dalla diversità all'unità, cioè una storia che parte da una profonda divaricazione di culture, di società e di civiltà e che lentamente, attraverso una serie di percorsi che la storiografia ha il compito di riconoscere, attraverso quindi anche vincitori e vinti, vittime e carnefici in certi sensi, la storiografia dovrebbe riconoscere modalità e tappe attraverso le quali questa divaricazione, questa varietà, questa disomogeneità profondissima, anche se non scompare, perché nessuna storia universale pensa ad una omologazione in senso totale, ma certamente si attenua nel momento in cui un modello di società e di economia prevale sugli altri, in qualche modo spingendo l'umanità a scegliere la strada di una, questa sì, omologazione a questo modello, con delle ricadute evidentemente poi varie nei contesti di cultura e di civiltà, ma in fondo un mondo che si riconosce nei principi della democrazia, nei principi della cittadinanza, nei principi della libertà individuale, nei principi del benessere e dello Stato che deve garantire questo benessere attraverso degli strumenti specifici, insomma tutta una serie di contenuti valoriali, perché è evidente che qui siamo di fronte a delle scelte di valore, qui non c'è nulla di neutrale, sono scelte valoriali che riguardano il senso dell'individuo, della sua identità, del suo posto nel mondo, del suo posto nella società, dei suoi diritti e dei suoi doveri, così potremmo continuare. Questo modello è un modello che si ritiene elaborato dalla storia, quindi non è un modello buono una volta per tutte, è un modello storicamente costruito, ma un modello a cui avrebbe dato un contributo essenziale nella sua elaborazione e poi nella sua affermazione questa Europa e poi questo Occidente di cui dovremmo capire il destino. Quindi che cosa è il progresso? Il progresso è il percorso accidentato di diffusione di questo modello e della sua declinazione secondo le diverse realtà del mondo. Questa visione, ripeto, ho semplificato al di là forse dell'incito, pensa quindi ad un'umanità che comunque in qualche modo mira ad una riduzione ad un numero, cioè in qualche modo un senso di unitarietà del mondo, che non è solo un fatto geografico, cioè non è un fatto che il mondo è oggi uno perché le tecnologie l'hanno reso più facilmente percorribile, anche questo ha la sua importanza. Ma questo mondo finito, perché ormai pienamente dominato, è in fondo l'esemplificazione estrema di questo percorso di integrazione dell'umanità. Guardate che questa visione è una visione di lungo, lunghissimo periodo, perché ha radicazioni di natura religiosa, ha radicazioni di natura filosofico, teorica, la troviamo riproposta in tantissime narrazioni. Possiamo, anche qui forzando le cose, dire che in fondo questa idea, questa teoria stadiale dello sviluppo storico, nei decenni più recenti, più vicini a noi, si è essenzialmente identificata con la teoria della modernizzazione. La parola moderna è una parola chiave se si vuol capire questa storia universale pensata in questi termini. La storia universale è una storia di mondo unificato nel nome della modernizzazione, cioè nel nome di un percorso di accesso alla modernità di un numero sempre più alto di individui, di un numero di società sempre più numeroso, dove ovviamente si tratta poi di capire cosa intendiamo per moderno e qui le voci sono indubbiamente molto diverse. Ora, questa grande, quella che oggi chiamiamo le metanarrazioni storiche eurocentriche, o io non userei tanto la parola eurocentriche, anche se poi vi spiego perché avevo suggerito questa sottovoce provincializzare l'Europa. Non è solo eurocentrico, non è tanto eurocentrico, è un problema, come posso dire, queste grandi metanarrazioni storiche che tengono insieme, pretendono di tenere insieme il mondo, lo fanno alla luce di alcuni principi costitutivi essenziali, uno dei quali è la ragione. Il principio di razionalità, che poi ha tutte le sue declinazioni scientifiche, tecnologiche o quant'altro, è uno dei punti fondanti di questa visione. C'è una ratio, una ragione, che è l'elemento regolativo e normativo della ricerca del progresso e della modernità sociale, economica, culturale e quant'altro. Quindi ci sono alcuni elementi fondanti e generali che ovviamente riguardano la storia dell'Europa, ma più ampiamente poi la storia dell'Occidente, ancora più ampiamente oggi, una storia più rara e più vasta di mondi che cooperano alla definizione di che cos'è la ragione oggi e in che senso noi possiamo pensare ancora alla ragione come elemento normativo e regolativo. Perché provincializzare l'Europa? Usiamo questo slogan. In realtà lo slogan viene da un libro di uno storico indiano, Chakravarti, il quale ha scritto un lavoro tradotto anche in italiano in cui sintetizzava una serie di spunti metodologici interpretativi importanti di questo filone, di cui ovviamente non avrò tempo di dire altro che forse il nome, i cosiddetti subaltern studies, questo filone di ricerca che ha nel mondo indiano, nella storiografia indiana e di questi indo-inglesi e indo-americani, perché poi a ben vedere questo gruppo di lavoro lavora prevalentemente fuori dai confini indiani, anche questo è un altro problema su cui sarebbe bello fermarsi. Questo gruppo di lavoro questo studioso Chakravarti scrive, raccoglie una serie di saggi e intitola questa serie di saggi, tradotte anche in italiano, un libro assolutamente non letto da nessuno, introvabile, ma c'è, che si chiama Provincializzare l'Europa, questo punto. Che cosa sostanzialmente sta dietro ai subaltern studies, ai cultural studies, ai post-colonial studies? Qui io non posso altro che enunciare una serie di correnti di pensiero storiografico, ma non solo, che negli ultimi 30 anni circa hanno messo in profonda discussione quello che vi ho cercato di dire, la teoria stadiale dello sviluppo, l'idea di modernizzazione come modello prevalente se non necessario, l'idea di una centralità dell'Euro-Occidente come momento e luogo formativo di questo modello e quindi quello che avrebbe in qualche modo propalato, prima con la forza e poi con la invece più blanda convinzione, come potremmo dire, convinzione ideologica a questo modello. Ci sono tutta una serie di correnti di studio di carattere storico, ma dove io non userei forse la parola storia in senso stretto, parlerei di studi storico-sociali, nel senso che la storiografia qui non solo non è l'unica protagonista di questo lavoro di ripensamento critico di questa visione, ma forse non gioca nemmeno il ruolo prevalente, lo dico da storica, perché in realtà gli spunti critici più radicali nei confronti di queste teorie unificatrici, omologatrici della storia del mondo vengono dall'antropologia, dalla sociologia, la sociologia storica in particolare, che è già sotto famiglia, in realtà da quel mondo variegato di psicologia storica o comunque di quel mondo che si interroga sui i principi non razionali della personalità individuale, che quindi parte dalla grande lezione freudiana e junghiana e poi prosegue la riflessione su quella parte che non è la razionalità, ma l'altra parte della psicologia individuale. Cioè sono il mondo dell'economia, indubbiamente degli studi economici, e soprattutto questa ala più moderna, in questo senso perché è arrivata dopo, sicuramente anche più innovatrice delle scienze sociali, che in qualche modo ha trascinato con sé gli studi storici. Dove li ha trascinati? Perché io non voglio teoriarli. Li ha trascinati in direzioni molteplici. Io qui mi limito davvero a fare un riassunto banalissimo. Quali sono queste direzioni? Beh, intanto la prima questione è che tutte questi percorsi, per esempio potrei parlare dei cosiddetti studi post-orientalisti che fanno riferimento al libro che ha avuto straordinario successo, ma io non so quanti l'abbiano letto sul serio, di Said, tradotto anche in italiano, che si chiama Orientalismo. In realtà c'è un libro di Said successivo molto più bello, molto più interessante, ma quello l'hanno letto ancora in meno. Ci sono tutta una serie di percorsi, c'è la cosiddetta storiografia e comunque gli studi sociali legati al fenomeno del multiculturalismo, che è un altro percorso possibile di messa in crisi di questa visione, come potremmo dire, stadiale di sviluppo, di modernizzazione. Si sono aperti, grosso modo dal secondo dopoguerra in avanti e con maggiore intensità, dal momento in cui la decolonizzazione ha fatto sì che alcuni contesti, penso al mondo indiano in primis, che è stato un protagonista d'eccellenza, penso, ma qui l'ovvio ne sa più di me, quindi non dico nulla, alcuni settori del mondo africano, penso, ma qui ne sa Chiampanini e quindi non dico nulla, alcuni settori probabilmente anche del mondo medio orientale, più tardi, anche il mondo cinese ha posto alcune domande, ma devo dire una cosa che almeno a me ha sorpreso: il mondo cinese è infinitamente meno contestatore della teoria stadiale di quello che non siano tutti gli altri mondi che ho qui richiamato. La storiografia cinese contemporanea, sia quella della, diciamo così, più legata alla tradizione del marxismo maoista, sia quella, non è postcomunista perché il comunismo non è mai finito in Cina, ma insomma quella che si è riaperta alle relazioni culturali internazionali, i cinesi che tornano a partecipare ai congressi, sono straordinariamente eurocentrici, cioè sono straordinariamente ancora legati a una visione tradizionale, progresso, modernizzazione, la mobilizzazione economica, cosa che ci dovrebbe dire molto, secondo me, ma questo lo lascio. Cosa è successo? È successo che a partire dagli anni 50, più intensamente dagli anni 80, che sono un po' uno spartiacque, la decolonizzazione si è conclusa. Emergono reti di università, mondi di produzione scientifica sempre più ricchi, spostamenti di intellettuali, di storici, di scienziati sociali da questi mondi decolonizzati verso soprattutto le università europee e americane. C'è tutto un mondo variegato che si mette in moto nel tentativo di fornire una nuova narrazione del mondo. Uso la parola narrazione perché questa è la parola cara a questi nuovi teorici della storia universale. Qui si apre già un problema. Perché? Perché in realtà quella visione, così ridotta ai minimi termini che vi ho proposto, pensa davvero al mondo come una realtà unitaria, sempre più unitaria. Queste nuove realtà, queste storiografiche, socio-storiche, partono proprio dalla messa in discussione. Cioè partono dalla messa in discussione dell'idea che se noi continuiamo ad applicare una logica di quel genere, le diversità vengono in qualche modo inevitabilmente depotenziate. Primo. Secondo, un modello prevale sugli altri e quindi è come se tutti quelli che vogliono cambiare il mondo non lo possano fare altro che secondo quel modello. Le scienze storico-sociali in questi mondi sono strettamente legate al dibattito politico, è inscindibile la riflessione sociostorica dal dibattito politico. In realtà questo era vero anche per l'Europa e per gli Stati Uniti, ma qui devo dire la dimensione è molto forte. Non è un caso che moltissimi di questi teorici e storici, di cui non parlerò, di cui non dirò nemmeno i nomi, sono uomini impegnati in senso radicale nella sinistra politica dei loro paesi, l'appartenenza, quindi sono persone anche coinvolte in modo... C'è una netta prevalenza di marxismo, anche se è un marxismo non all'europea, quindi un marxismo assai più complicato e diversificato. Comunque, che cosa succede? Che costoro mettono in discussione l'idea che se si continua ad utilizzare quella chiave, che è una chiave che ha determinato che cosa? Che si sia passati dalle civiltà plurale ad una civiltà singolare. L'idea quindi che la diversità sia qualcosa di non positivo e che vada stemperata in una similianza di percorsi. Questi sono storici che partono da una sottolineatura fortissima della diversità. Diversità culturale, diversità di civiltà, diversità di società e, sottolineo con forza, diversità religiosa. Molti di questi studiosi, penso per esempio agli indiani, sono studiosi, prima di ogni altra cosa, della dimensione religiosa e del suo peso nella storia dell'India antica, medievale, moderna e contemporanea. Sto usando termini eurocentrici, ma questo è un altro problema su cui non avrò tempo forse di fermare, ma lo dirò dopo se mi fate delle domande. Cosa succede con questi studiosi? Che questi studiosi rifiutano in modo radicale questa griglia concettuale che tiene insieme il mondo. La spezzano e nel farlo mettono in discussione non solo la storiografia, così come è stata scritta, così come è stata messa in campo. Mettono in discussione le categorie di cui la storiografia prevalentemente si è servita per leggere il mondo, mettono in discussione che ci sia presente un progresso, cioè mettono in discussione che ci sia non solo l'unità del mondo variamente raggiunta, ma che questa unità sia in qualche modo indirizzata verso un qualche destino. Tantomeno se questo destino lo decidono poi gli occidentali a scapito degli altri. È una messa in discussione radicale di tutte le ideologie totalizzanti che spesso stavano dietro a quella visione del mondo. Perché attenzione, la visione del mondo unitaria di cui parlavo si sostanzia nel rapporto stretto con gli storicismi, che questi siano poi quelli di stampo liberale o marxista, sempre storicismi sono. È un rifiuto radicale di tutte le filosofie della storia. La visione che vi ho fortemente sintetizzata, certamente a Hegel, e cito solo lui, in parte se non in toto dietro, lui e tanti altri di cui potremmo parlare. C'è una tabula rasa, per esempio, di tutta una parte della filosofia occidentale che viene considerata prologa di questa visione che non può essere più accettata. La cosa, da qui davvero chiudo perché poi se mai vedete un'altra cosa ve le dico dopo. Che cosa succede con tutti questi post-colonial, cultural, post-moderni, post-coloniali, post-orientalisti, poi sempre post sono, perché sempre post sono? Perché voglio prendere le distanze dalla moderna, cioè da questa idea di un mondo etero diretto verso una certa soluzione. Tutti questi post-signori che cosa cercano di fare? Con esiti, in alcuni casi di straordinario interesse, in altri casi più fragili, ma questo è un altro problema. Cercano di far capire che si può leggere la storia dell'umanità a partire da una decostruzione e da un decentramento di questa unità. Ovvero, la parola decostruzione per loro è un elemento chiave. Bisogna spezzare questa specie di scatola che tiene chiuso il mondo, una scatola concettuale, e al suo posto cercare nuovi strumenti concettuali per capire il mondo. Secondo, decentrare. Se l'Europa e l'Occidente in genere si sono arrogati il ruolo di essere il centro propulsore del mondo, noi dobbiamo negare l'esistenza di un centro e affermare la pluralità dei centri. Nel momento in cui decentro e dico che di centri ce ne sono 50, è chiaro che un centro non c'è più. E allora a questo punto io ho un mondo frammentato e magmatico dove la ricerca di un filo conduttore diventa per alcuni inutile, e queste sono alcune posizioni estreme, per altri infinitamente più complesso e soprattutto più libero, perché non più preconfezionato alla luce di un unico modello di civiltà. Questo perché sottolineo questo, perché una cosa molto interessante e importante di questi studi è che ci sia la ricerca, per esempio, di una visione molteplice della modernità. Io penso a certi testi di Amartya Sen, che sono tradotti in italiano, che quindi sono fra l'altro scritti in italiano comprensibile, cosa che alcuni di questi post-colonial, post qui sono proprio guardate, li leggo io perché devo farlo. Che cosa ci dice Amartya Sen? Dobbiamo smetterla di pensare, per esempio, che esista un unico modello di democrazia, che esista un unico modello di società affluente, esista un unico modello di relazione fra religione e politica, che esista un unico modello di Stato, che esista un unico modello di economia moderna. Dice, se noi studiamo da storici gli altri, ci accorgiamo che l'alterità ci può offrire una quantità di ipotesi e realtà storicamente date di sviluppo che quella teoria stadiale ha compresso e talora cancellato, ma che forse se noi gli ridiamo spazio e voce ha qualche cosa da dirci. Questo anche da dove nasce? Dal fatto che tutti questi filoni, vi dico, hanno in sé una carica eversiva, diciamo così, dell'egemonia occidentale molto forte, questo va detto, cioè, quando parlavo di questa stretta connessione fra storiografia e politica, certamente dietro a questi lavori c'è una ricerca anche prima di tutto di spezzare una condizione egemonica che inizialmente aveva diviso il mondo in due parti e adesso vede sopravvivere praticamente solo un'unica grande potenza. La cosa, e davvero chiudo, curiosa, ma non curiosa se ci ragioniamo, è che questo percorso di critica durissimo che ha investito la filosofia occidentale, ha investito le teorie economiche occidentali, ha investito la storiografia occidentale, è stata condotta spesso da importanti uomini provenienti da mondi non europei, ma è stata realizzata nelle università, nelle istituzioni, sulle riviste, nelle case editrici, con i finanziamenti pubblici e privati dell'Occidente. Se noi oggi discutiamo di provincializzare l'Europa, non è solo perché Chakravarti o Buia o altri studiosi indiani ci dicono che lo dobbiamo fare, ma perché in realtà i primi a porsi il problema sono stati gli europei. Non ho tempo e non lo faccio, se vi citassi una breve tre righe dal testo di Carr, 6 lezioni sulla storia, che se non avete letto guai a voi, o anche di Brodel, altro autore piuttosto noto, Questi signori negli anni 60 cosa scrivevano? È finito un mondo, e quindi noi da storici dobbiamo prendere atto che insieme a quel mondo sono finite anche le rappresentazioni storiche di quel mondo. E quindi forse il fatto che questi indiani, come si chiama, africani, eccetera, abbiano condotto questo lavoro di decostruzione dentro l'Occidente,